Buon pomeriggio a tutti. Bene, grazie di Angelo. essere qui in questa iniziativa. Mi presento, io sono Raffaele Bergalenti, sono il presidente dell'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, grazie al sostegno della Open Foundation, ha avuto modo di lavorare per 2 anni con molti dei colleghi che sono anche qui presenti per affrontare il tema della salute psichica dei migranti forzati nei centri di accoglienza, anche a ragione di una percezione che non sempre era facile per le strutture territoriali di salute mentale di prendere in carico adeguatamente la sofferenza psicologica di complessa dalle radici diverse dei soggetti nelle strutture. E devo dire, in questo lavoro che è investito soprattutto 4 territori, cioè la Lombardia, il Lazio, la Campania e la Sicilia, abbiamo potuto vedere che forse molto c'è da fare per costruire un sistema che sia in grado di comunicare meglio e di prendere per l'appunto, di assumere una responsabilità condivisa. Per intervenire adeguatamente sulla storia di vita di queste persone. Tutto questo ha dato vita a delle linee guida accompagnate da una pubblicazione che sarà disponibile, credo che poi nella chat verrà reso dato il link per poter accedere alle linee guida, alla pubblicazione. Ci tenevamo che questo sforzo maturato principalmente in Italia trovasse una sua attenzione anche presso il Parlamento europeo, perché riteniamo che l'esperienza maturata dall'Italia possa servire anche ad altri paesi e in uno sforzo comune di adeguare i sistemi di accoglienza e soprattutto di rispondere ai temi della salute mentale, che sappiamo un po' ovunque in Europa costituiscono una difficoltà, nel senso che la sofferenza psichica dei migranti forzati è forse uno dei fattori che crea maggiore preoccupazione. E allora devo dire, dobbiamo dire veramente ringraziare, vi passerò subito la parola, l'onorevole Bartolo per aver voluto sostenerci in questo evento pomeridiano, ma anche per aver scritto una bellissima prefazione a queste linee guida e averci veramente incoraggiato fin da quando l'abbiamo contattato un po' di mesi fa per appunto sul lavoro svolto. E anche voglio ringraziare l'onorevole Zampa, di cui è prevista un'apertura dei lavori, ma ha avuto un impegno che la blocca proprio dalle 15 alle 15:30, quindi si ricollegherà alle 15:30, avremo modo quindi di ascoltare anche l'onorevole Zampa. Anche lei ci ha sostenuto in questo lavoro e anche nell'accogliere le linee guida e assumerle, se non altro, come spunto di riflessione sul tema della salute psichica dei migranti. E quindi grazie anche al vasto panel dei relatori che a vario titolo hanno contribuito anche al lavoro svolto e alla redazione delle linee guida, ma che presenterò più avanti. E a questo punto lascerei la parola all'onorevole Bartolo per un saluto intanto, poi chiederemo anche alla fine dei lavori di decidere di chiudere la giornata di riflessione comune. Onorevole, a lei. Sì, mi vedete? No, manca l'immagine, cioè la voce si sente, ma manca l'immagine. Un attimino, vediamo se riesco a immaginare un attimino. Ecco qua. Eccoci, adesso la vediamo. Sì, via il mio video. Ok, grazie. Scusate un attimo, c'è stato un momento di. Ho toccato un tasto che non dovevo toccare. Intanto, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti gli intervenuti. Lasciatemi dire che è un grande onore un grande onore condividere questo evento, purtroppo a distanza, ormai insomma dobbiamo lavorare in questo modo, su una tematica che mi sta particolarmente a cuore. Saluto ovviamente la sottosegretaria Sandra Zampa, insomma, che ci verrà a trovare quanto prima, presto si è dovuta allontanare, gli organizzatori, i colleghi e gli ospiti che interverranno a questo dibattito. Di fronte alla richiesta del professore Bragalenti, ovviamente, di partecipare a questo progetto, non ho avuto un attimo di esitazione, ovviamente, come diceva, sono anni che mi batto affinché la salute mentale dei migranti e dei richiedenti asilo e rifugiati trova la giusta collocazione all'interno della medicina delle migrazioni. In 30 anni di professione, sono tanti anni che mi occupo di queste persone, ripeto persone, e ho visto veramente tante cose, troppe ferite dell'anima. E vi assicuro che sono proprio queste le ferite più difficili, tanto da diagnosticare quanto da curare. Ecco, sono sicuro che le raccomandazioni contenute in questo progetto, se correttamente implementate da tutti gli attori coinvolti, contribuiranno in maniera significativa a dare una svolta alla cura di queste persone. Quindi riprendo un passaggio contenuto nel mio contributo. No, attenzione, si è disattivato l'audio, onorevole. Mi sentite adesso? Sì. Quindi in un passaggio nel mio contributo io ho detto non dimentichiamo mai che la salute rappresenta un valore collettivo e che le migrazioni possono essere considerate come la cartina di tornasole dello stato di salute della democrazia europea e della capacità degli stati membri di garantire effettivamente i diritti delle persone. Ecco, il progetto Psicare si muove in questa direzione. Ora vi lascio per ascoltare con grande interesse il contributo di tutti voi, però poi ci risentiremo per le conclusioni. Quindi vi auguro un buon lavoro a tutti. Grazie, onorevole. Direi di passare rapidamente la parola al viceprefetto Assunta Rosa, praticamente la colonna portante del PAMI da diversi anni, con cui peraltro abbiamo condiviso alcune preoccupazioni all'inizio. Assunta si ricorderà, era una riunione presso la prefettura di Roma 4-5 anni fa, da cui emerse questa difficoltà delle strutture di accoglienza a gestire la salute psichica dei migranti, con una necessità, diciamo così, espulsiva verso luoghi presunti luoghi idonei a trattarne la sofferenza psicologica, e da lì si è iniziato a riflettere in particolare su questo tema. Assunta, grazie di essere qui, a te. Grazie a voi, è veramente un piacere essere qui. Poi in questa dimensione raccolta, che sembra raccolta apparentemente, però di fatto ci sentono molte persone che io saluto, che io... Non so se si è collegata, leggevo, non so, ditemi voi. Allora, molte persone ci sono in ascolto. Sembra che stiamo parlando in 3-4 persone, ma invece c'è un ascolto molto forte, e quindi bisogna che modulo le mie parole anche in base a questa presenza. Saluto tutti. Sì, abbiamo fatto parecchio cammino insieme. Io lavoro al Ministero dell'Interno, mi presento per chi non mi conosce, e nel campo della migrazione dal 2000. È un pochino, ma nell'ambito della gestione, dell'attenzione a questi fenomeni non è mai troppo, perché non ci si inventa, dico io, in questo settore. Bisogna essere sempre preparati a leggere, non tanto i libri. La lettura dei libri è semplice, può essere semplice, ma bisogna leggere le persone e capirle e andare verso di loro con delle diciamo, con degli interventi che possano sostenere quell'inclusione, quel benessere collettivo, come diceva l'onorevole Bartolo, che io saluto, Bartolo, scusi, che io saluto, e per l'interesse collettivo, l'attenzione alla salute del migrante. La salute è un bene regolamentato a partire dalla nostra Costituzione. Noi abbiamo una normativa, forse una delle più inclusive, si dice, no, dell'Europa e anche in generale, io penso a livello mondiale. Però siamo a volte disattenti ad applicarla, a mettere in atto quelle che sono le linee guida, perché ci sono delle linee guida. Io ho letto questo vostro documento che veramente apprezzo, ma lo dico perché siamo qui e ce lo dobbiamo dire, no, non ce lo dobbiamo dire, è un documento veramente interessante che ho letto, l'ho stampato, non lo dovevo dire, ma l'ho stampato, non l'ho letto, quindi ho usato della carta, perché sono ancora quella che deve tenere in mano qualcosa di tangibile. Leggendo, scorrendo pagina per pagina, andando avanti con tutti questi ricchissimi contributi, a partire dalla presentazione, la prefazione fatta dall'onorevole Zampa, al resto, dall'onorevole Bartolo e degli altri, ho veramente arricchito il mio pensiero. Perché? Perché a partire da una... prendo spunto, quindi scusate se io approfitto e rubo delle frasi da questo documento, a partire da un intervento, documento del dottor Corrivetti. La salute è il prodotto di un'interazione virtuosa e convergente di tutti i sistemi che ne sono coinvolti, sociale, sanitario, istruzione, ricerca e giustizia. La salute fisica e la salute mentale non si tutelano con la semplice erogazione di prestazioni professionali, ma dal mantenimento di tutte le condizioni che ne assicurano il benessere. Si collega questo a quanto dice l'onorevole Zampa all'inizio dell'approccio olistico della problematica, del far sì che non ci sia soltanto un approccio sanitario fine a se stesso, no. È importante interagire. Però questo è quello che noi, adesso mi inizio a raccontare la mia storia, abbiamo cercato di fare con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione. Il dottor Doel, che ci sente, è il nostro, diciamo, referente insieme ad altri nella commissione e sta seguendo con noi tutti quelli che sono gli interventi in quest'ambito particolare, l'ambito della salute, ma in particolare delle vulnerabilità, del disagio mentale dei migranti forzati, ha fatto da padrone per alcuni versi sulle risorse, sull'utilizzo di queste risorse. Però eravamo soli, non eravamo equipaggiati, cioè un Ministero dell'Interno non è che ha competenze, la competenza del Ministero dell'Interno, sapete, la competenza, poi questa è una parola orribile, diciamo quello che è la sfera d'azione, l'ambito dell'accoglienza. E l'ambito dell'accoglienza abbiamo visto che andava in tensione, andava in sofferenza, laddove c'erano delle presenze che poi sono andate sempre di più aumentando, perché la vulnerabilità del migrante forzato risente al migrante economico, chiaramente è doppia. E i traumi, e non sto a dire altro, chiaramente segnano questi percorsi. E quindi abbiamo iniziato a leggere nella scrittura, ma più che nella scrittura, perché il primo piano del Fondo Asilo Migrazione era stato disegnato nel 2014 in occasione dell'emergenza Nord Africa. Molti furono gli interventi pensati, c'era un afflusso molto grande. E si pensava di più all'accoglienza, ma entrando dentro, io personalmente mi ero occupata fino allora del Fondo Europeo per l'Integrazione, ho visto quello che forse continuiamo a vedere, cioè un non collegamento fra quello che era l'offerta del sistema pubblico e l'offerta, diciamo, l'accoglienza. Quindi era necessario in quel momento collegare per fare sistema le due realtà, quindi migliorare, sviluppare un empowerment di comunità, di azione che portasse a un miglioramento, a una conoscenza, a una consapevolezza, cioè chi gestiva l'accoglienza doveva sapere che poteva contare tutte le specializzazioni, una presa in carico, perché non si lavora da soli ed è questa la cosa fondamentale. Come abbiamo detto prima, l'approccio olistico, l'ambito della migrazione un ambito dove il lavorare da soli non porta a nulla, quindi la sanità deve parlare con il sociale, con tutti gli ambiti che devono essere dentro per poter avere efficacia. Allora, la migrazione non può, l'accoglienza non può essere gestita dal Ministero dell'Interno, punto. No, deve chiamare in causa tutte le competenze necessarie, la scuola, la salute e tutto quello che fa da complemento anche per garantire l'autonomia successiva all'accoglienza. Ora, noi questo abbiamo cercato di fare con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, collegare i diversi ambiti. Collegare la scuola, per esempio, parliamo apro e chiudo una parentesi. Abbiamo iniziato già nel FEI a parlare di piani regionali per l'affermazione linguistica. Insieme al Ministero dell'Istruzione abbiamo innestato un sistema dove con gli uffici scolastici regionali, con gli OGCPIA e con le regioni, perché le regioni abbiamo attivato un sistema di offerta formativa. Perché le regioni? Per la governance territoriale, per attivare un sistema di facilitazione alla fruizione, che questi servizi fossero fruibili. Quindi, con cosa si doveva attivare le regioni? Le regioni attivano i servizi aggiuntivi insieme agli enti locali per i trasporti, per il babysitting, per la mediazione, per tutto un insieme di servizi che hanno fatto sistema. E questo sta andando avanti. Allora, per quanto riguarda l'ambito della salute, noi insieme al Ministero della Salute, che in questo momento, devo dire la verità, sta attivando dei canali di collaborazione attivi e proattivi di grande, grande, grande spessore. Io ringrazio l'onorevole Zampa, ringrazio anche, visto che c'è con noi Costanzo, gli NMP, ringrazio loro anche per gli interventi che stanno proponendo nell'ambito dello sviluppo delle linee orientatrici per la nuova programmazione. Noi siamo in una fase di nuovo in corso perché stiamo andando verso una nuova programmazione. Allora, quello che noi abbiamo, la nuova programmazione sono risorse per altri 7 anni, dal 24, dal 21 al 27, dal 2021 al 2027. Quello che abbiamo fatto ci deve fare da ci deve segnalare quello che è andato bene e quello che è andato male. Io ho visto e sto vedendo che questa progettazione, queste linee di indirizzo per noi saranno un'ottima luce, un ottimo indirizzo, scusate, ripeto, un ottimo orientamento a scrivere, ma abbiamo già avuto dal Ministero della Salute abbiamo fatto tutta una consultazione a amministrazioni, regioni, terzo settore e quant'altro, che ci orienterà nella scrittura della programmazione, perché in questa, specialmente nelle linee, nelle parti finali di questo documento, sono scritte nero su bianco che cosa è bene fare. È bene fare, innanzitutto è bene capire i ruoli, è bene andare a dare a ognuno la propria responsabilità. E questo è fondamentale all'interno per quello che riguarda il sistema d'accoglienza, per il monitoraggio, ma il monitoraggio del sistema d'accoglienza non può prescindere dalla collaborazione attiva delle ASL nell'ambito territoriale, che devono monitorare in maniera costante e permanente quelle che sono soltanto già le idoneità di queste strutture. Noi siamo andati, io personalmente ho visto e toccato con mano, come diceva prima l'onorevole Bartolo, toccare con mano le persone, parlarci è un'altra cosa. Io ho avuto modo e piacere di conoscere minori, perché io sono andata a visitare molti centri di minori non accompagnati, e si cresce con loro, perché io ho avuto l'occasione, il privilegio di capire direttamente quello che c'è dentro. Leggere le persone, torno a dire quello che dicevo prima, non leggerlo da un documento, da una relazione, da un report, no, è diverso, molto diverso. E quindi questo ha sicuramente portato in luce la necessità, come dicevo prima, di dare delle indicazioni certe, più certe, cioè, le linee di indirizzo ci sono, ma noi dobbiamo far sì che queste linee di indirizzo, comprese queste che sono state scritte, vengano rispettate. Le linee di indirizzo sono state anche date dal Ministero della Salute nel 2017, ma l'importante è il monitoraggio. Quando dicevo appunto le competenze, i ruoli, allora qui alla fine del percorso che è stato fatto in base a tutte, ecco, i vari contributi, si arriva a delineare delle linee, no? Delle linee di indirizzo, dicendo chi deve fare che cosa. E questo è fondamentale che ci siano tra le istituzioni centrali degli accordi. L'immigrazione non può essere gestita soltanto dal Ministero dell'Interno, ma deve essere gestita insieme, però sulla base di accordi che poi a cascata generino, siano seminali per gli accordi territoriali, perché questo è fondamentale, perché il protocollo che può fare la regione può fare deve avere una standardizzazione. Questo è il progetto che sta facendo il Ministero della Salute con un FAMI, sta cercando con un progetto che tanto poi verrà penso citato di trovare una strada per andare a delineare delle comunità di pratica standardizzate sulla gestione della salute dei migranti a livello regionale omogenea. Questo è un grande progetto. Un altro progetto, questo speriamo che possa aver luce nel breve tempo, spero che ci sia la possibilità di rifarlo anche in questo ultimo squarcio del FAMI, è quello di andare a trovare un modello di azione per la presa in carico corretta dei sociosanitaria dei migranti, andando a leggere quello che abbiamo fatto, perché noi abbiamo fatto molto, molto, diciamo, nell'ambito del FAMI abbiamo attivato molti progetti su questa tematica, ma più che altro la tematica della vulnerabilità, andando a chiedere alle aziende sanitarie e alle regioni di attivare degli interventi di connessione fra l'accoglienza e la salute, la sanità, il sistema sanitario pubblico, formando gli operatori. L'alfabetizzazione sanitaria, così come si dice, l'alfabetizzazione sanitaria sia per i migranti sia per gli operatori dei centri di accoglienza, ma nello stesso tempo dare anche agli operatori sanitari la percezione di quello che significa accoglienza, come interagire, come riuscire a migliorare, perché questo è fondamentale, cioè la formazione, migliorare, questo è uno dei cardini che va assolutamente preso. La formazione e l'aggiornamento continuo degli operatori sociosanitari, dei centri di accoglienza, dei mediatori linguistico-culturali, del personale dell'organizzazione civile, nell'adozione di un linguaggio comune, di un vocabolario comune, questo è fondamentale. E questo può rientrare nell'addizionalità delle risorse europee, può rientrare nel FAMI, in quello che sarà la nuova programmazione. Lo abbiamo già, le basi le abbiamo gettate in questa programmazione, diciamo, in corso, dove anche attraverso recentemente una circolare fatta dal nostro capo dipartimento, il prefetto di Bari, porto il suo saluto e porto il saluto del prefetto di Lullo. In questa circolare data a tutti i prefetti, mandata a tutti i prefetti, è stata inviata il 16 ottobre, si rinnova la conoscenza dell'esistenza di queste progettualità attive sui territori, mirate proprio alla tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità, di connettersi con questi progetti e oggi più che mai in relazione all'epidemia in corso, per attivare sempre di più in questo campo di battaglia in cui stiamo combattendo tutti, di attivare sempre queste valorizzazioni in termini di competenze e di risorse. Questo è, diciamo, un nostro assoluto impegno. Questo è fondamentale per capire come muoverci adesso a breve termine, per quello che possiamo ancora attivare a medio e lungo termine. Ora io non vi voglio annoiare di più. Quello che posso dire è questo, che la risorsa europea, il FAMI, ha attivato progettualità dove hanno lavorato insieme le ASL, hanno lavorato insieme le regioni, hanno lavorato insieme il privato sociale, il Ministero ha dato delle linee guida e queste linee guida sono per noi il faro orientatore. Però è necessario il monitoraggio di queste, non il controllo, ma proprio un monitoraggio permanente che permette di andare a leggere dove stiamo andando, come stiamo andando, se, scusate se riprendo sempre tutto con una citazione che è stata anche in qualche modo chiamata nella vostra veramente pregiatissimo lavoro. Io vi ringrazio perché per noi sarà, ripeto, un documento base per quella che è la programmazione futura, anche in quello che voi alla fine chiamate buone pratiche. Di buone pratiche ne abbiamo, oltre a quelle che voi avete citato, tantissime. Però queste buone pratiche devono arrivare ad essere conosciute, devono essere diffuse, devono essere reingegnerizzate e replicate. Noi abbiamo anche a Roma, a Lazio, il Samifo, sapete tutti, c'è anche con noi Santone. Per me è stato, come l'incontro in prefettura allora, un momento di apertura a una realtà complessa, che ha bisogno però di collegarsi. E cito, chiudendo, le parole che dicevo, è stata anche citata la doppia assenza nell'ambito di questo vostro elaborato, di questo vostro scritto. Cito appunto le parole di Abdel Malek Sajad: l'immigrante diviene il luogo controverso di una doppia assenza, al contempo assente sia dalla società di origine che da quella presso cui risiede, escluso dall'ordine politico e sociale di entrambi i luoghi che ha abitato e abita, come fosse straniero presso il mondo intero. Allora qua, da qui capiamo una cosa fondamentale che ci deve guidare e orientare: l'importanza delle integrazioni delle azioni psico-socio-sanitarie per favorire la salute sicuramente in prima linea, ma quello che è l'autonomia e l'affermazione e l'indipendenza del migrante, lavorando, e questo su tutti i campi, non solo su quello, sul promuovere sempre di più una partecipazione attiva dei migranti. Questo è un vulnus che abbiamo ancora, che non abbiamo assolutamente tenuto in considerazione molto, ma dobbiamo tenerlo in considerazione più, perché è la variabile che ci permetterà, secondo me, di rispondere in migliore modo ai bisogni e alle necessità e attivare delle strategie integrate, sì, ma condivise. Quindi io vi ringrazio e mi scuso se sono stata un po' lunga. Grazie. Grazie, Sandra, anche perché, diciamo, nel tuo caso i fatti parlano, nel senso che l'impegno delle misure del FAMI sui temi della vulnerabilità e dell'autonomia sono documentati e documentabili, ed ormai sono diversi anni che, appunto, che vediamo bandi del FAMI aperti su questo. E devo citare anche l'ultimo che mi ha colpito, perché insomma aver inserito un avviso sul tema dei traumi dei minori stranieri, che è recentissimo questo avviso, mi pare un altro segno importante di questa attenzione veramente alla tutela della salute nella sua complessità. E mi dai anche l'occasione per dire che queste linee guida sono state realizzate in maniera realmente partecipata, con la componente degli psichiatri, degli psicologi, degli operatori delle strutture di accoglienza, dei migranti, attraverso dei processi di condivisione e di ascolto realizzati con focus group nelle quattro regioni che ho citato prima. Quindi, diciamo, noi ci siamo limitati alla fine a organizzare quanto tutti i soggetti che sono in qualche modo attivi, sia nella fase dell'accoglienza che della presa in carico, poi hanno fatto emergere come necessità per far funzionare bene il sistema. Quindi devo dire veramente un grazie collettivo a tutti coloro che ci hanno aiutato. Non potrei citarli tutti perché sono stati veramente tanti, alcuni sono qui presenti intorno a questo tavolo virtuale, ma insomma tanti altri soggetti ci hanno dato una mano.